fossi ciò, viene lento di vagare, una musica brutale, incendio nostra passione. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Ieri facevo una riflessione, era nottetempo, ho gettato un occhio distratto al televisore prima di chiuderlo definitivamente, c'era una puntata speciale di Porta a Porta, era il Rai Pride, era una puntata didattica in cui si spiegava agli italiani come sintonizzare il televisore con la novità del digitale terrestre, questo era almeno il motivo tecnico. Ma per dare forza a questo momento didattico poteva essere affidato, non so, al consorzio Nettuno, in una delle tante trasmissioni tecnico-didattiche del servizio pubblico, si erano messi assieme alcuni illustri testimonial della sovrascrittura della nostra identità. Pippo Baudo con i capelli di fresco tinti, Milly Carlucci freschissima, l'Antonella Clerici, Conti, tutta una serie di residui di quello che era la nostra memoria televisiva. Ognuno veniva interrogato su quello che avesse rappresentato l'azienda pubblica per lui nei secoli e ognuno traeva appiglio a riferimenti da manuale. A Carlucci si ricordava Giovanna la nonna del Corsaro Nero, Conti si ricordava Rin Tin Tin, Pippo Baudo ricordava se stesso essendo osservatore e allo stesso tempo elemento fondamentale del ricordo televisivo. E tutto questo condito da Bruno Vespa, che sembrava attingere a una meravigliosa cornucopia di ricordi fantastici. E poi c'era il direttore generale della RAI, nel suo bellissimo gessato, che annunciava la grande novità, che tutto questo sforzo per aprirsi al mondo del digitale, che avrebbe costato a vecchi e pensionati lunghe, faticose giornate davanti al televisore per cercare di recuperare questa codifica dei canali. Le tracce della memoria collettiva si erano perse, bisognava riprogrammare, quindi risovrascrivere la scrittura del nostro passato. Poi entra un giovane sudaticcio e cotonato ingegnere che comincia a spiegare in maniera assolutamente indecifrabile come si sintonizza il televisore. E ciò veniva rappresentato come una sorta di sortilegio misterioso, quasi ci fosse bisogno di saperi nascosti ed esoterici. Tutti dicono: ma io sono negato con la tecnologia, ma come si fa? E questo faceva vedere col telecomando, come poi lo fanno da solo i televisori, si risintonizza. Ma quella sintonizzazione, al cospetto dei numeri evocati del nostro passato storico, è stata una delle più lampanti indicazioni a farmi parlare questa mattina del grado zero della sovrascrittura. Scrittura del nostro mondo. Hai scritto 500 canzoni. Qualcuna di più, sì. Perché non, i calcoli ormai non si possono più fare. E questo ultimo disco che tu hai uscito è il tuo 30esimo. Perché? Hanno fatto questi calcoli. Io mi sono chiamato zero per evitare il conflitto con i numeri e tu. Sono perseguitato dai spacciatori. Di che? Oh. Perché vado in giro con sto sorriso, con questa energia, senza piamme niente. Questi sono cazzati neri. Io però forse qualcosetta vorrei fare, che dici? Beh, poi ne parliamo, che dici? Me faccio? No, guarda, perché se tiri qui te sa moscia là, c'è la compensazione. A Roma si dice hai fatto pace col cervello, no? Sì. Tu nel brano, no? Io quello non ci riuscirò mai. No. Io e il mio cervello siamo in causa da 50. Però... Questa mattina costringerò un amico a fare un triplo salto mortale. Tommaso Labranca, buongiorno. Buongiorno Gianluca Nicoletti. Tommaso Labranca è uno zerologo, quindi un biografo attento di Renato Zero, autore di Da Zero a Zero, Edizioni Arcana, un profilo ragionato e tracciato di questa immarcescibile icona della nostra storia. Visto che stamattina stiamo parlando della sovrascrittura, del grado zero della sovrascrittura, che mi è balenato ieri guardando appunto questa sorta di rituale tra il voodoo e l'antico rito egizio di revocazione degli spiriti faraonici. Viene da pensare quale rapporto c'è fra questa meravigliosa, profonda e fulgida icona pop del nostro paese. Questa mattina sono entrato a Radio 24 con sotto braccio il tuo libro, subito tutti gli uscieri sono palpitati di un afflato, mi hanno detto: ma viene Renato Zero, davvero vieni su. Era semplicemente invece il tuo libro, ho detto no, parlo con un autore di Renato Zero. Alla luce di, faccio una piccola premessa, poi ti lascio tutto lo spazio. Alla luce dell'analisi del fenomeno zero, che abbiamo visto sintetizzata in questa breve intervista da Dandini, quindi un certo Cotè impegnato e strutturato, prende Renato Zero, un po' ci sorride, un po' lo vede come qualcosa che non appartiene alla sua cultura, però ha dalla sua parte, anche se lo rinnega, un Marrazzo che scrive una lettera al Papa per chiedere perdono al Santo Padre di essere stato con i trans. Tommaso. Chi l'avrebbe pensato 30 anni fa che saremmo arrivati a questo? Cioè, a volte il presente ci fa più paura del futuro che non conosciamo, quindi il presente che conosciamo fa più paura del futuro ignoto. Sai, Renato Zero, se fosse stato messo al posto di Bersani o di qualunque altro leader del centro-sinistra, avrebbe riportato il centro-sinistra al governo, perché è l'unico che sa parlare al popolo. Questa è la vera forza della sua icona. Cioè, Renato potrebbe parlare di tutto, appunto, dalla risintonizzazione dei canali televisivi all'economia, facendosi capire, perché lui in primo luogo è colui che non capisce, è lui colui che diffida della novità, del cambiamento. Ma in quella sua frase, che sembra quasi una sorta di mantra alla Dandini, che lei finge di non aver capito, c'è tutta la sintesi del dramma Marrazzo: se tiri su non ti tira giù. Ma lui ha sempre queste uscite anche abbastanza grevi spesso. Io ho fatto una lista di canzoni, le canzoni più grevi di Renato Zero, però sono quelle che vanno dirette al popolo, al pubblico, ai suoi seguaci, e naturalmente dette così come sono, perché non possiamo nascondere la nostra componente sessuale, la nostra componente di grevità, perché sennò poi la viviamo di notte, appunto, come alcuni politici, e poi siamo costretti, una volta scoperti, a scrivere lettere al pontefice, come se poi dovrebbe chiedere scusa a... Questa è un'apparenza innocente, ma dovrebbe chiedere scusa agli elettori, non al pontefice. Sì, ce lo stiamo dicendo tutti noi, perché delle nostre misere colpe umane non ci sogneremo mai di chiedere scusa al Papa, perché prima avremmo una processione lunghissima di esseri umani banalmente facenti parte della nostra famiglia, dei nostri amici, di quelli che ci danno da vivere, piuttosto che arrivare al Papa. Questo salto immenso, questa sorta di missile verso l'assoluto, che fa sì che le colpe di un governatore di una regione importante debbano essere subito portate al cospetto del pontefice. Beh, tu quanto vedevi, quanto è possibile vedere alla luce di quello che accade oggi? Non fermiamoci solo a questo episodio, se no sembra una sorta di accanimento, ma in generale nel clima che si respira oggi, i giornali, che già questa mattina un nuovo sexy scandalo, il video segreto della Mussolini campeggia in prima pagina sul giornale, quindi continuiamo a insistere su questa nostra doppia lettura della realtà, pudibondo senso di critica nei confronti dei costumi personali, sessuali del nostro prossimo e scatenamento individuale e personale. Ecco, quanto c'è di profezia di questo nel mito Renato Zero, un giovane che nasce come giovane di borgata, che si presenta al mondo dello spettacolo, come tu hai scritto e ti stupì fortemente, come qualcosa che non si capiva bene quale fosse nemmeno il suo genere, la sua identità sessuale? In effetti è così, cioè lui però ha avuto, diciamo, il coraggio di proporsi in questo modo, cioè di non avere una parte diurna, una parte notturna, una parte pubblica, una parte nascosta. Ha forzato, diciamo, la sua componente di diversità fino a che non è stata accettata. Perché è stata accettata? Perché ha raggiunto il successo e perché soprattutto ha dichiarato questa sua componente. Il trucco per me, Nicoletti, sta tutto nell'effetto George Michael. Quando George Michael fu beccato in quelle condizioni imbarazzanti, in quel parco qualche anno fa, invece di nascondersi e chiedere scusa alla regina Elisabetta, che è il corrispettivo anglicano del Papa, dichiarò pubblicamente: sì, l'ho fatto, e allora cosa posso farci? Cioè, prese la cosa in maniera molto divertita, molto ironica, e quella fu la chiave del suo rilancio, del suo successo, perché fu accettato. Ecco, Renato Zero ha questo atteggiamento, ci scherza su queste cose, a volte non arriva fino alla dichiarazione piena, però non ritratta neanche, per cui questo gioco piace anche al pubblico ancora di più, piuttosto che il fare nascostamente, poi scusarsi, poi ricomparire. In quanto a quello che fanno i giornali, lo sa lei meglio di me, cioè ci diamo del lei come da Marzullo, vabbè, se vuole. Ma certo, ma perché teniamo le distanze. Sì, per entrare più nel personaggio, infatti, entrare, è giusto. No, perché tutta la narrazione, cioè anzi, il grado zero della sovrascrittura è data da personaggi che la sera magari vanno a trans assieme e poi si danno dell'è in televisione. No, ma infatti, ma anche sui giornali appunto vediamo nuovo scandalo sessuale, giusto perché come la storia dei pitbull, cioè morde un pitbull, poi il giorno dopo altri due, altri tre, altri quattro, finché non succede qualcos'altro, cioè è un tipico schema della cronaca e dell'informazione, però fa paura vedere questi scandali sessuali così esplicitamente rappresentati e poi leggere un commento come quello di Giuliano Ferraro di Sul Foglio riguardo la pillola RU486. Sembra veramente due mondi diversi, cioè sembra che convivano l'Inquisizione e il 68 degli hippie, però senza completare nessuno di questi due mondi. Per questo poi alla fine si resta talmente confusi che ci si abbandona a seguire icone come Renato Zero, che comunque sono icone positive. Beh, continuiamo a proporre degli stralci di dichiarazioni epiche di Renato Zero e sottopongo anche all'attenzione del nostro pubblico, può chiamare all'800 24 0024 quanto vede di riflesso della propria identità, del senso nazionale che ci vede separati comunque da queste due doppie scritture della nostra esistenza, una pubblica e una privata. Questo disco parla sempre molto di voi, perché attraverso queste canzoni c'è tutto un ripescare di emozioni, e a questo appello di oggi mancano delle meravigliose testimonianze, dei sorci che questo nostro amico Sandro di Genova è venuto nello studio mentre io registravo questo disco e aveva già questo cancro che se lo stava mangiando. Sandro se n'è andato, ha lasciato la sua bambina e la sua compagna, ma ha lasciato molto di più, Renato, a difenderlo. Non è mai facile un ritorno, non è... Altro profonda corda da toccare, l'amico scomparso, il collega sofferente, il morto che diventa e entra in una sorta di empirio di eletti, la macerazione quotidiana, la descrizione, il compiacimento, il teleton continuo che tracima da televisione in realtà. Ecco, quanto c'è di questo, Tommaso, in Renato Zero? C'è molto, ma bisogna sottolineare che è un molto sincero. Cioè, quello che dice Renato lo prova veramente e lo pensa veramente, non è una formalità, non è una finzione televisiva. Piuttosto la parte più importante di tutto quel discorso è la frase finale, c'è Renato a difenderlo. Renato Zero è una di quelle, le icone si dividono in due gruppi ormai, cioè l'icona che si vuole possedere, tipo il vampiro di Twilight che le sedicenni vorrebbero possedere, e poi l'icona a cui si delega. Renato Zero è un'icona delegante, gli si delega la nostra protezione, la nostra difesa, allo stesso modo in cui a Grillo si delega la difesa dai politici cattivi o a Saviano la difesa dalla camorra cattiva. A Renato Zero si delega la difesa dal mondo cattivo. Lui è la fantasia che ci salverà, l'ha sempre cantato, lui appunto è il personaggio che ci porterà in un altro mondo, su un altro pianeta, sulle nuvole, sulle ali di queste farfalle meravigliose e colorate, come era meraviglioso e colorato lui. Però tu mi dai proprio il fianco, anzi lei mi dà proprio il fianco, per riportare alla metafora iniziale su cui volevo sfumare. Anche la forza, la popolarità e l'attendibilità di Marrazzo nasce proprio dall'essere il difensore degli oppressi, dei consumatori, dei deboli. Quindi è comunque un modello forte, è un modello che funziona. Il modello farò il vostro paladino funziona sempre, perché comunque è quello in cui poi la gente che non ha voglia di muoversi, non ha i mezzi, non ha magari la pigrizia di fare qualcosa in prima persona, poi crede. È molto più comodo aprire un bloggettino in cui si parla di ciò che gli altri fanno contro la camorra che andare a lottare in prima persona contro la camorra. Per cui figuriamoci, delegare nel Renato Zero il salvataggio della nostra vita dal grigiore quotidiano, piuttosto che veramente mettersi una camicia colorata noi in prima persona, andare in ufficio, è molto più facile. Io ho avuto l'ardire di chiedere alle persone non riempirmi di messaggi per una sorta di chiamata alle armi di una giornata di mobilitazione generale. Non voglio e non posso e non mi interessa nemmeno entrare nei particolari. Mi è stato dato del qualunquisma, del reazionario e via dicendo, proprio perché non mi sono voluto accodare, ma non per nessun tipo di condivisione o non condivisione ideologica, perché non piaceva l'imbrancamento assolutamente formale, di facciata e semplice, che basta schiacciare un pulsante del proprio mouse, già si appartiene comunque a una schiera di rivoluzionari. Ecco, in questo probabilmente ci può dare una mano Luca Mastrantonio, altro amico e collega, responsabile delle pagine della Cultura del Riformista, autore di Irrazional Popolare, edizioni Einaudi. Ecco, stiamo cercando, buongiorno innanzitutto Luca. Buongiorno. Di mettere a punto alcuni sotterranei probabili profetici modelli rispetto a un atteggiamento che percepiamo nella realtà. Ecco, partiamo dall'icona zero, che ci sembra quella più attuale e più efficace, analizzata da Tommaso Labranca. Ecco, quanto vedi di profetico, rifaccio anche a te la stessa domanda, nel fenomeno zero rispetto a quello che oggi sta accadendo, la lettura quotidiana dei fatti e misfatti degli italiani? Ma io credo che sicuramente, mentre sentivo le vostre suggestioni su questo personaggio, mi veniva in mente un Frankenstein che è riuscito a crearsi da sé, perché in fondo è riuscito a mettere assieme, questo ovviamente visto retrospettivamente, all'epoca probabilmente nulla di più naturale per la sua vocazione talentuosa a trovare quella strada, però c'è un po' di quello. Scusate, che... se qualcuno di voi due ha un telefonino acceso magari lo spenga, perché si sente... una singolare vibrazione sottofondo. Prego, vai avanti Luca. Io sono a cellulare. Ah, beh, sì, beh, quello è chiaro, il tuo sì. Ma un ulteriore cellulare. Un ulteriore cellulare no. E quindi, per esempio, pensavo, si parlava di altri cantanti, beh, pensavo anche a questa dimensione fantastica che abbiamo avuto con Freddie Mercury, che era presente anche in Zero, l'idea che nella musica si parlava della musica, nello spettacolo si parlava dello spettacolo, la vita, lo spettacolo, come un carrozzone che va avanti. Ci sono molte dimensioni. Quindi più che di profezia forse parlerei di generosità del suo talento, della sua umanità, che forse ha sempre, sempre dato, non si è mai sottratto, e quindi forse ci possiamo riconoscere in maniera più limpida nei suoi mascheramenti, nei suoi trucchi, nei suoi chiaroscuri, nei suoi Pierrot, che non in figure che si vogliono dare oggi in maniera univoca, piatta, come Paladini e basta, che non hanno ombre, ormai anche al cinema ci fanno vedere anche in Batman giustamente i lati oscuri. Ecco, forse il problema dei paladini, e questo invece in Zero non c'era assolutamente, è che vogliono sembrare meglio di quello che sono, vogliono farci credere di essere meglio di quello che sono. Sentiamo Giovanna un attimo, scusa Luca. Giovanna, prima ascoltatrice. Sì, buongiorno. Il tema mi interessava parecchio e mi ha anche incuriosito. Io, diciamo, ascolto Renato da una vita. Nell'adolescenza, cioè nel periodo appunto di ricerca, per noi ragazzi, poi avevamo un gruppo, ha rappresentato proprio il venire fuori in maniera diversa. In anni, lei a quale generazione appartiene, signora? Tanto... Io adesso ho 39 anni, ero un po', quindi 14 anni, insomma. Però per dire, era un po' l'antagonista di Baglioni, quindi erano due mondi completamente diversi. Identificarsi un po' in questo mito era far venire fuori un po' quello che era il lato più fantasioso. Io, diciamo, ho sposato mio marito, l'ho conosciuto proprio tramite un programma radiofonico su Renato Zero, quindi per noi è stato sempre vivere un po' a colori. Eravate due sorcini? Sorcini, e lo siamo tuttora. Per i 10 anni di matrimonio ci siamo regalati il concerto, anche se devo dire che abbiamo avuto tutti e due la stessa impressione, ci ha emozionato un po' di meno che nel passato, perché mentre nel passato era proprio un vivere la realtà, un identificarsi, oggi l'ho trovato un po' stranamente fuori. Tommaso Labranca, su questa generazione lunga, questa sfumata enorme di Renato Zero, me lo ricordo io che ho 55 anni come qualcosa che apparteneva comunque a persone quasi miei coetanee, e su questo apparente perlomeno affievolirsi della fulgidità di questa icona. Ma in realtà prima di tutto dobbiamo essere grati perché comunque è durato fino ad oggi, quante meteore pop abbiamo visto cadere, quindi Renato vuol dire che ha sempre avuto qualcosa da dire. Sì, è cambiato lui, ma forse sono cambiati anche i suoi seguaci, e quindi non si riconoscono più in quello che lui fa, perché non, il mondo cambia, cioè la signora dice non mi emoziona più come un tempo, è normale perché poi si cresce sia come artisti sia come fan. Certo è cambiato anche lui, perché ha cambiato il modo di presentarsi, non è più la farfalla colorata, è diventato un signore vestito di nero, anche perché dopo una certa età... Perché sfila il nero, certo, anche. Sì, insomma, nessuno lo fa più dopo una certa età. Ha avuto questa fase abbastanza cupa, abbastanza introspettiva, un po' da santone, che è sempre stato, fra l'altro, sin dai primi tempi, per cui qualcuno si sarà sentito un po' così, smarrito di fronte al vecchio idolo che invitava alla fantasia e che poi invece faceva le canzoni anche lui sul Papa, o si presentava in questa maniera così cupa, parlava di vecchiaia. Che è un termine da non nominare mai. Melog 2.0. Stai sentendo Mina che ti canta. Ti sei emozionato? Ti sei riconosciuto? Ho scoperto il pannolone. È stata una delle scoperte più importanti della mia vita. Mamma ha salutato. Vedi che ci stanno i nonnetti. Non spingete. 800240024, nell'analisi dettagliata di Renato Zero, del fenomeno pop di Renato Zero, che facciamo assieme a Tommaso Labranca, che è autore da Zero a Zero, edizione Arcana, una biografia ragionata interpretata a Renato Zero. Cerchiamo di risalire a quello che è il grado zero della sovrascrittura, della nostra memoria, del nostro modo d'essere, della nostra apparenza e della nostra sostanza. Mi scrivono degli ascoltatori su Facebook e pongo le domande a Tommaso Labranca. Mi scrive Gino: a dire la verità, Zero non ha mai ammesso alcuna diversità, anzi ha sempre ipocritamente evitato di esporsi. Non è molto diverso da altri nebulosi personaggi. Poi Zeniba vorrebbe che si parlasse di Fonopoli, e ti chiedo: Fonopoli, il fenomeno Fonopoli, l'utopia di Renato Zero, della grande accademia di tutte le arti, e il fenomeno Amici, l'accademia reale costruita da Maria De Filippi quotidianamente, con quei ragazzi che si massacrano di fronte a una sadica giuria di ex capo per avere la palma, poi magari per vincere anche Sanremo. Beh, in primo luogo una cosa rapidissima, Renato Zero non si parla solo di diversità sessuale, ma diversità proprio sociale, cioè lui era la persona diversa dal grigiore, in quel senso diversità dichiarata, non nell'altro senso, giusto per precisare quello che diceva il corrispondente di Facebook. In quanto a Fonopoli è una cosa che va avanti da ormai anni, che non si riesce a realizzare. Renato dice colpa dei politici, perché va dal sindaco, finalmente riesce a farsi accettare, parte il progetto, poi cambia il sindaco e deve ricominciare tutto da capo, un po' come appunto i pensionati che cercano di sapere quando arriverà l'aumento della pensione e girano per le sedi dell'INPS. Non è proprio un'accademia Fonopoli, perché le accademie televisive o anche cinematografiche, tipo film, musicali, nascono da persone che vogliono cantare e basta. Nel caso di Renato, scusa, Tommaso, ti richiamiamo un attimo perché c'è una linea pessima, si capisce poco quello che dice, è un vero peccato. Intanto sento Paolo, il nostro ascoltatore. Paolo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Sono qui ad ascoltarla. Niente, io ho 45 anni, non sono mai stato un sorcino. Però apprezzo molto di più Renato Zero in questa sua fase di crescita artistica, che non quella magari che ha avuto all'inizio dai suoi esordi, anche se lui comunque attraverso questo suo sviluppo artistico ha segnato dei periodi delle generazioni vere e proprie. All'inizio lui magari ha attraverso la sua proposta visiva voleva trovare una collocazione artistica e anche sociale, e l'ha trovata e la sta trovando ancora ora, per cui penso che lui sia uno degli artisti più rappresentativi del pop italiano attualmente. Luca Mastrantonio, responsabile delle pagine della cultura del Riformista: quanto c'è di irrazional popolare in questa sorta di giusta e coerente approvazione del fatto che un artista possa avere delle mutazioni, possa cambiare? Io ho aperto questa trasmissione raccontando l'immobilità, la mummificazione di quella che è la memoria storica ancora vivente o sopravvivente del servizio pubblico, parrucchini, mummificazioni, revocazioni e annunci fatidici che la novità del digitale sarà un canale con tutte le teche Rai, quindi la novità dello strumento tecnologico riporterà la certificazione della mummificazione dell'immaginario. Beh sì, finiremo sempre più sotto teca. Quanto c'è del fenomeno anche zero di irrazionale, c'è moltissimo, c'è qualcosa quasi di basico, di corporale, di animalesco, appunto. Se si emoziona parla del pannolone, c'è una dimensione, c'è un grado effettivamente zero di elaborazione dell'istinto primordiale che forse è la sua forza. E forse più che oltre che con sì, però almeno posso dire, almeno è sincero, la banda del Chalice e del Catetere sì. Che troneggia nella televisione italiana, si credono tutti dei ragazzini di 20 anni. Beh, cioè, siamo in una corte francese, chiaramente con la cipria e le parrucche, oppure in una corte di giustizia inglese. La televisione, prima di questo switch off che sta insomma promettendo chissà quanto manterrà, effettivamente vuole fermarci, vuole ancorarci ad un'idea autocelebrativa, vuole mummificarci, vuole in fondo anche prenderci in ostaggio, anche forse della nostra nostalgia, perché noi siamo un paese che si scopre incredibilmente nostalgico. Le nuove tecnologie, forse anche giustamente, altro non fanno che far esplodere pezzi di passato. Forse le maggiori fruizioni di YouTube, all'inizio, prima di scaricarsi le serie o di vedere serie americane che in Italia non venivano, ci si andava a vedere le gag, gli sketch dei film classici, della Marmata Brancaleone, piuttosto che della commedia all'italiana. Quindi c'è una commistione molto forte. Quando c'è una nuova tecnologia o la promessa di una nuova tecnologia, in realtà si deve riempire spesso di anche squisiti cadaveri di quella che è la nostra memoria. Noi camminiamo dantescamente in avanti, ma con la testa rivolta indietro. Salvatore, sentiamo Salvatore. Salvatore, buongiorno. Buongiorno, signor Nicoletti. Io volevo rendere la testimonianza su Renato Zero, perché nel 78 mi è capitato, 77-78, anno in cui facevo militare a Verona, di vederlo girare con un cavallo e con una ragazza sopra quando ancora non aveva raggiunto l'apice della notorietà. Girava. Quindi, a cavallo? Sì, sì, no, girava lui a piedi, con un cavallo lo trainava, lo tirava per le prigne e con una ragazza sopra, ma nessuno lo cagava, nel senso la parola. Cioè, poi ascoltando le sue canzoni, io che venivo da una realtà contadina in cui non avevo conosciuto fino a quel momento lì televisione, radio, niente. Però conosceva i cavalli, conosceva. Ascoltando le sue canzoni ha cambiato il mio modo di essere, la mia vita. Perché mi riconoscevo molto nella canzone, per esempio, Il cielo, quando lui diceva a un certo punto a noi che basta un sorriso, una stretta di mano e tante altre cose, insomma, anche il baratto. Le prime canzoni, secondo me, sono state molto significative per me. L'ho seguito parecchio all'inizio, poi dopo, chiaramente, con il passare degli anni, mano a mano è scemata la mia passione. Ma non beh, perché proprio l'ha detto lei, col passare degli anni scemano fisiologicamente molte passioni. Tommaso Labranca, questa mattina entrando con il tuo libro qui alla sede del Sole 24 Ore, oltre ad avermi chiesto se mai venisse realmente Renato Zero, uno dei signori che stanno alla reception mi ha spiegato anche lui un'aneddotica legata a Renato Zero, che lo vide da una 500 singolarissima che l'ha chiamato, gli ha fatto dei motteggi. Esiste quasi una sorta di aneddotica, quasi una geografia di Renato Zero. Senti, questo l'ha visto con il cavallo con una donna sopra, l'usciere l'ha visto con la 500 che usciva dal tettuccio della 500. Questo fa parte dei sintomi di una sorta di virtù eroica del personaggio. Fa parte di una umanità del personaggio che non si nasconde e gira per strada. Tutti a Roma lo incontrano a far colazione, a far la spesa, in giro, lui parla con tutti, si ferma. E ha avuto questo coraggio di esporsi, di uscire, di parlare col suo pubblico, che invece un altro idolo della stessa città e dello stesso potere come Totti non ha avuto. Per cui oggi Totti si lamenta di non poter andare a fare un shopping senza essere fermato, quindi vive un po' da recluso. Mentre Renato ha forato, diciamo, la parete della reclusione e ha detto: eccomi, fate di me quello che volete. Lui ha sempre una parola per tutti e poi tutti lo ricordano. Cioè, quel signore dopo 30 anni si ricorda ancora di aver visto quest'uomo col cavallo che girava. Cioè, al di là del cavallo, però resta comunque impressa la cosa, perché lui non si nasconde, quella è la sua vera forza. Andiamo avanti, visto che vogliamo fare un'analisi anche più approfondita partendo appunto da Renato Zero, delle nostre icone pop, ve ne proponiamo un'altra. Io non amo aprire delle parentesi personali, proprio è uno sforzo, in questo momento il cuore mi sta battendo a 2000 all'ora. Su un settimanale è apparso oggi un articolo che riporta notizie sulla mia vita privata, notizie inaccettabili. Ve lo voglio dire perché io accetto critiche, tiri mancini, cattiverie su di me, per carità, lo so, fa parte del gioco del mio lavoro. Ma c'è una cosa, cari signori che avete scritto questo articolo, che non vi permetterò mai di fare, è di giocare con mia madre, perché mia madre non me la toccherete mai. Basta. Tommaso, la mamma della Carrà non si tocca. Vediamo se riusciamo a fare un ardito passaggio tra l'icona Renato Zero e l'icona Carrà, che hanno molti punti di contiguità. Hanno molti punti di contiguità, naturalmente, sì, hanno tutta, soprattutto penso il sarto, perché si versano allo stesso modo. Ma al di là, la Carrà, mi spiace dirlo, è un po' invecchiata male rispetto a Renato Zero, che è ancora attivo, è ancora forte, è ancora pieno di energia, come diceva prima, facendo la rabbia dei pusher di varie sostanze stupefacenti. Raffaella Carrà, non dico sia un po' spenta, però si è un po' chiusa anche in una certa rabbia verso un mondo che non l'accetta più. È un po' divisa fra la sindrome di Greta Garbo e la voglia di ritornare. Infatti, a un certo punto poi c'è anche un colpevole, c'è una televisione cattiva che non la fa più lavorare. Questo influisce molto sul personaggio. Però c'ha ragione, ci sono ben più corrose deità televisive che ancora stanno lì a cavallo. In fondo uno spazzettino nel grande ospizio per lei si potrebbe trovare. Melog 2.0. Il signor Gaetano è un muratore, quindi lavora non solo col cervello ma anche con la fatica delle sue braccia, con attenzione. La signora lì è una signora casalinga, quindi non sono dei benestanti grandi, però l'amore fa questo. Scusate, io non sono nessuno per dirlo, ma sono una donna, e come donna vi voglio dire che sono storie che fanno malissimo. Fanno veramente male anche noi in questo momento, che abbiamo la voce rotta dal pianto. Quindi, visto che stamattina stiamo cercando di analizzare il grado zero della sovrascrittura, riportando alla mente, se possibile, tutti i file per noi dispersi, ma probabilmente per la percezione generale ben presenti della nostra struttura fisica, mentale, immaginifica, ve ne proponiamo immediatamente un altro, per poi metterli tutti a confronto con la principale delle icone del grado zero della sovrascrittura, che è Renato Zero. Siamo tutti figli dello stesso ceppo, i chilometri sono soltanto delle fantasie da leggere quando ti va e come ti pare, ma quando stai su un palcoscenico mi sembra che la musica riesca veramente a coniugare le persone, ed è quello che noto sera dopo sera, anno dopo anno, o decennio dopo decennio, ormai si può dire anche questo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato. Luca Mastrantonio, ho fornito una torta piena di tutti gli ingredienti per darti modo di riflettere su quelle che sono le contaminazioni, le sovrapposizioni o le differenze. Ma guarda, ascoltando queste schegge che forse sono confittiate da qualche parte nella nostra memoria, riportarle così alla luce, se sembriamo anche un paese anche incredibilmente ancorata delle dimensioni familiari, matriarcali, dove il privato e il pubblico si mescolano, è incredibile, non siamo assolutamente cambiati, la Carrà oggi non può avere nessuno spazio perché c'era De Filippi, perché diciamo una creatura televisiva che rappresenta forse nella catena umana una sua forse evoluzione, la sovrasta, perché appunto mette assieme Zero e la Carrà, mette assieme Amici, mette assieme le lacrime, quindi si rimescola tutto, ma in realtà con delle forme sintetiche, anche forse perfette. Più però contenute. Straordinariamente Albano ha una sua sopravvivenza incredibile, non è stato mai offuscato, rinforzato da tutte le presentazioni, le resumazioni di Padre Pio, addirittura, e questa la rivolgo a Tommaso Labranca, la morte di Michael Jackson ha riportato all'attualità anche Albano. Sì, ha riportato l'attualità anche di Albano, però di tutti questi personaggi di cui stiamo parlando, cioè Albano, Renato Zero, Raffaella Carrà, su cui scherziamo anche per certe uscite, per certe ingenuità, dimentichiamo sempre di sottolineare che hanno una capacità di svolgere il proprio lavoro, quello che si chiama così, anche a volte banalmente talento, che poi è il motivo della loro persistenza, perché poi alla fine il pubblico, per quanto cada nelle trappole del mito costruito, quando uno non è capace di fare qualcosa, dopo un po' lo abbandona. Beh, Albano ha avuto una fase di diciamo rivitalizzazione quando è stato costretto ad andare all'Isola dei Famosi, era il momento Lecciso che aveva un attimo gettato una piccola ombra sulla sua compattezza, poi ha saputo comunque riscattarsi. certo ha saputo riscattarsi, ma anche perché lui ha qualcosa da dire che un certo tipo di pubblico recepisce come propria. Cioè, nessuno di questi tre personaggi porta la verità, porta una illuminazione, mette semplicemente uno specchio di fronte alla camera e dice: guardatevi, vi vedete bene, io che sto a fianco allo specchio sono esattamente come voi. Il pubblico si riconosce e allora li premia. Oddio, una parte il pubblico, perché l'incipiente è già annunciato fallimento poi dei ragazzi della casa del Grande Fratello, che stanno esagerando, si scazzottano, si zompano addosso, hanno superato il limite della possibilità di riflettersi da parte del pubblico, dimostrano che sta avvenendo qualcosa di sghembo nella televisione. Comunque sentiamo gli ascoltatori. Fabio. Buongiorno Nicoletti. Ascoltandomi mi sono venuti in mente due episodi. Il primo è che anch'io in realtà, quando ero ragazzino, incontrai a Viale Ostiense, stavo in macchina sulla 127 con papà mio, Renato Zero, che stava sopra un sidecar o nero, grigio scuro, con un casco tipo da tedesco. E l'altro episodio invece è che la Mola, facevo forse la quarta o la quinta elementare, c'era una compagna di classe che portava una spilletta sopra la divisa di Renato Zero, e la suora Pallottina gliel'aveva vietata, praticamente aveva detto che non voleva che venisse in classe con quella spilla. Vabbè, certo. Tutto qui. Tommaso Abranca, ma non ti intriga, non ti interessa questo fatto che continua questo filone leggendario, soprattutto la deambulazione di Renato Zero sempre legata a fantastici mezzi di trasporto? Abbiamo avuto il cavallo con la donna sopra, la 500 da cui esce dal tettuccio, adesso il sidecar con l'elmetto tedesco. Ma c'è stata anche una biga con cui lui faceva il giro dello stadio durante una famosissima serie di concerti, o il tram che lui prendeva con la gallina al guinzaglio, per cui la lista potrebbe proseguire. D'altronde la stranezza del personaggio, il suo voler comunque porsi lontano dalla normalità, ancora una volta parlo di vita sociale, appunto anche di mezzi di trasporto, si riflette anche in queste scelte. Forse sai perché, Tommaso, che oggi il corrispondente Renato Zero, quindi la pop star, è in una sorta di omologazione anche di mezzi di trasporto, è auto blu con vetri fumé, con bodyguard che lo circondano, con l'auricolare all'orecchio, tutti uguali, non cambia, nessuno ha una differenza. Fabrizio. Sì, buongiorno, complimenti. No, volevo solo riportare una testimonianza, anni 78, 77, 78, 79, degli anni, fine 70, insomma, perché mia moglie ha un negozio a Riccione e si forniva Renato Zero e la Bertè, venivano spesso in quel periodo a trovare delle cose particolari, eccetera, ed erano insieme e vedo ancora adesso una dicotomia, diciamo, chiamiamola così, tra quello che può essere l'esposizione pubblica, no? Che vuole fare delle cose diverse, e quello che era la sua realtà vera, che obiettivamente traspare anche dalle canzoni. Cioè, quando parlavate prima dicendo che lui è così, è vero, ecco, effettivamente anche quando si comportava, sì, ma già esattamente problema. L'ha detto la Branca, e almeno è una persona che gira per strada, è possibile vederlo. Gabriella anche l'ha visto una mattina mentre andava a Rete Monte Carlo con Jocelyn e Loredana Bertè. Continuano le apparizioni mistiche di Renato Zero e continueranno ancora chissà per quanti secoli. Grazie la Branca, grazie a Mastrantonio, a lunedì. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.